Allora, torniamo in diretta. Perché dovremmo avere una telefonata? È in corso una importante iniziativa. Pronto, ci senti? Sì, ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno, allora l'avevamo proprio ricevuta pochi minuti fa questa agenzia, un'iniziativa in corso alla sede del CMC. Spiegaci tutto tu, come sta andando? Sì, questa mattina insomma siamo venuti qua in circa una quarantina di attivisti che in questi giorni hanno partecipato alla mobilitazione insomma che ha cercato di sostenere la lotta del popolo della Valsusa, e nello specifico abbiamo occupato la sede romana della CMC, che è la cooperativa Muratori e Cementisti, che diciamo che è una di quelle cosiddette cooperative rosse che sta che in questo momento ha già ricevuto i soldi per cominciare a fare i tunnel esplorativi in valle, appunto. E è una di quelle iniziative insomma di sanzionamento con cui si è iniziato insomma già da due settimane un percorso nella città di Roma, ma insomma in tutta Italia, e che ovviamente, oltre a dimostrare la vicinanza e la solidarietà appunto a chi sta resistendo in valle e a promettere sostanzialmente una non tregua a tutti quei partiti, sindacati e cooperative, imprese che insomma hanno intenzione di sostenere quel progetto, insomma abbiamo portato qua anche manifesti, gli appelli del corteo di sabato, insomma un corteo che nasce dopo l'iniziativa fatta al CIPE la settimana scorsa e che vede ancora delle misure restrittive insomma ai danni di un compagno che quella mattina sostanzialmente manifestava un po' come lo stavamo facendo noi oggi, cioè denunciando il fatto che è un'opera inutile, che costerà milioni di euro e che con quei milioni di euro ci si potrebbero fare una serie di altri servizi. Nello specifico insomma la settimana scorsa si chiedevano case e in questo momento insomma sul nostro volantino ci sono una serie di dati che raccontano quanto dai 4 centimetri di TAV al chilometro di TAV si potrebbero fare una serie di altre cose, dagli anni di pensione alle sezioni delle scuole piuttosto che ai posti resti all'interno degli ospedali. L'iniziativa continua, ovviamente dato il clima di questi giorni, tempo pochi minuti e siamo stati circondati da Digos e un paio di blindati di carabinieri, e l'occupazione in questo momento dell'ufficio è ancora in corso e insomma attendiamo notizie e riscontri da parte della sede appunto della CMC. Senti, beh, insomma, è certamente un fatto positivo che denota anche un po' la crescita del movimento No TAV a Roma, il fatto che si cominciano ad indicare proprio le società insomma coinvolte nel progetto e che evidentemente celano in modo abbastanza evidente insomma un grande interesse dietro la costruzione di quest'opera. Si dà un volto, un nome insomma a queste società e a questi personaggi che gravitano attorno, quindi CMC, l'Impregilo e via di seguito, insomma anche questo vuol dire insomma fare una campagna di informazione reale su questo avvenimento e capire chi c'è dietro. Esattamente, insomma dei responsabili in carne ed ossa ci stanno, qua si continua a dire che è l'Europa che ce lo chiede e è evidente insomma che se anche è l'Europa che ce lo chiede c'è qualcuno qua in Italia che va alle cooperative e arriva a tutti quei rischi mafia che sono stati denunciati in questi anni insomma anche su in valle, e appunto ha delle responsabilità in carne ed ossa. Penso alle iniziative della scorsa settimana fatte al Partito Democratico, ovviamente passando per tutte le società che hai giustamente citato te, dopodiché noi potremmo dirne altre, insomma c'è la Cogeis, c'è la Bentini, c'è la Geotecna, insomma ci sono una serie di società per azioni che stanno mettendo o hanno già messo le loro mani insomma su questo progetto, e è evidente insomma che uno dei modi per sostenere quella valle è per far capire che appunto la battaglia No TAV non è una battaglia che si rinchiude in Valsusa, ma una battaglia che riguarda tutte e tutti noi, e insomma promuoviamo anche grazie a questa radio insomma la diffusione e la proliferazione di iniziative che facciano sentire insomma il nostro sostegno. Senti, lo accennavi anche tu, insomma, stiamo vivendo comunque delle settimane piuttosto complicate sul piano dell'agibilità nella nostra città. La situazione, hai detto, che insomma si è già palesata così per il fatto che mantengono un'attenzione non da poco nei vostri confronti. Insomma, qual è l'atteggiamento più o meno è quello rude, insomma, che abbiamo visto qualche giorno fa? Beh, diciamo che l'arrivo è sì, è assolutamente quello, insomma, sono arrivati terrorizzati e spaventati dall'iniziativa che stavamo compiendo e ovviamente, insomma, abbiamo cercato di spiegare le nostre motivazioni e adesso la situazione si è un po' tranquillizzata. Ovviamente sono stati immediatamente presi documenti a tutti gli attivisti che stavano qua, quindi insomma non c'è possibilità di mediazione in questo momento, per fortuna non me ritengono, quindi la presenza all'interno dell'ufficio continua ad esserci. Chiaramente le notizie che ci arrivano da su sono che qua la sede della CMC qua a Roma è una rappresentanza che sta fuori dal proprio territorio e che quindi da qua non possono dirci niente, ma che nel caso ci rincontreranno, insomma, quindi ora cerchiamo di capire ulteriori informazioni da sopra, però insomma la presenza di un blindato di due blindati dei carabinieri e di almeno una ventina di agenti della TIGOS, insomma, è esemplificativa del momento, insomma, che stiamo vivendo anche in questa città. Va bene, allora ci risentiamo magari più tardi, nel caso, insomma, soprattutto tendano a prolungarsi di queste procedure così di identificazione, speriamo che non si vada oltre. Comunque tu in ogni caso richiamaci e vediamo se è il caso di fare un'altra corrispondenza, ma richiamaci per capire com'è andata comunque, va bene? Va bene, vi ringrazio. A dopo, ciao. Ciao.